La ilaha illallahu wa la na'budu illa iyyah. Non c'è divinità tranne Allah e noi non adoriamo se non Lui. La ilaha illallahu haqqan haqqan. Non c'è divinità tranne Allah, è verissimo. La ilaha illallahu imanan wa sidqan. Non c'è divinità tranne Allah, con fede e sincerità noi lo diciamo. La ilaha illallahu ta'abbudan wa riqqa. Non c'è divinità tranne Allah, con adorazione e con devozione totale. La ilaha illallahu talattufan wa rifqa. Non c'è divinità tranne Allah, con gentilezza e con pietà.